sono rigidi, lo sappiamo che è così, però se tu vivi in un condominio non ti permettono di fare il buco per mettere le scarpe a muro, devi arrangiarti con quelle a tassello e quindi quelle a tassello tengono di meno e praticamente vogliono tirantarti il faro, capito? Specialmente se il faro di quelli telescopici cioè non è quelli d'acqua. Se no io non l'avrei fatto col tubo d'acqua, per la pignoleria che c'ho io. Ma non c'entra niente già, potevi bucare e usare il chimico, tassello chimico è trafila, ed era meglio di fare il buco e di murare. Il tassello chimico non va da nessuna parte, è una ultima soluzione, anzi forse la migliore. Infatti io non lo utilizzo più, ne piazzo tutti i giorni e ormai buco, marra filettata, chimico, poi mi asciuga 10 minuti a vitto. Il tassello chimico è allucinante. Io l'ho usato per fare un lavoro micidiale. Lo so, io ho provato, un amico mio non ci credeva, ho provato a legare la macchina e stava portando presso il blocchetto. No, non molla, il tassello chimico una volta li asciuga e pietra, diventa tutto uno, è micidiale. Ne esce Pietro, il muro attaccato, ne esce. No, no, ti porti proprio il blocchetto, il cantone appresso. Oh, yeah. Vabbè, chissà se riuscirò. Ciao ragazzi, io devo chiudere. Sentiremo tutto quanto alla prossima. Ciao caro, un bocca al lupo per tutto, dai, facci sapere. Andate tranquilli, se faccio la quarantena sarò 24 ore su 24 attaccata alla radio. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao, avanti Gianni. Ciao oggi. Dai, attento, vedrai che non succede niente. Io non sono tranquillo. Io approfitto un po' per rilassarmi, dai. No, ok. Ciao ragazzi, a domani, ciao. Avanti, Antu, già eri una di chi non entravi, come mai hai fatto cucù? No, niente, mi stavo riparando un computer a un amico e ho detto accendo la radio che mi fa un po' di compagnia. Ciao. Ma non le stavi accendendo per niente, stavi facendo a scuola? No, sono accese, però col volume basso, giusto per tenere i condensatori in tensione. Ma io no, scusate un attimo, ma sì, Antonio Grode? No, sono Antonio Riserva. No, vabbè, niente, va. Ci sentiamo. Antonio di Serra? No, Antonio Riserva. Perché camminava sempre con la macchina a riserva, gli hanno messo riserva. Ciao. Ciao Eugenio, ciao. Ah. Sì, no, non era bugia. Avevo la 127 con l'impianto a gas e benzina non ce n'era mai, quindi riserva. No, vabbè, io lo stesso c'ho la macchina con l'impianto a gas e la benzina ne metto 10 euro così. Tanto per metterla in moto, No, io con il nuovo impianto che ho fatto parte anche a gas. Ma dove l'hai fatto? Nella punta? Sì, nella punta, sì. Ho cambiato la centralina da poco, ne ho messo una di nuova generazione, perché l'altra mi stava dando un po' di problemi, allora questa qui in teoria praticamente metti in moto e parte subito, cosa ti posso dire, 1, 2, 3 e sta già andando a gas, ma potrebbe partire anche solo a gas. Dove l'hai fatto? Da Calvino l'impianto? Sì, l'avevo fatto da Galvino e niente, la centralina me la sono comprata a parte, me la sono installata io. Ah, ho capito. Vabbè. Comunque a gas è una sa cosa, tu. Io mi ricordo che quando andavo a lavorare 4 volte al giorno a Porto Torres spendevo 350 euro di benzina. Sai a gas quanto spendevo al mese? 135 euro, 150 al massimo. Lo so già, io lo stesso, vabbè, io è dal 1989 che ho avuto il primo impianto GPL, ce l'ho adesso nella mia e quella di mia moglie, tutti quanti le macchine che circolano a casa sono tutte quante che vanno tutti a GPL, noi a benzina ormai ce l'hanno dimenticata. Sì, intanto non è cara, quando devo metterne 10 euro non entra nulla, prima superava la linea di metà e cose, adesso proprio due tacchetti vanno. Sai cosa ci vuoi fare? Con GPL però male ti aiuti. Sì, infatti. No, ma io lo uso anche in città, io veramente la macchina GPL me l'avevo comprata così già dalla fabbrica a GPL. L'avevo comprata con la storia che io andavo a lavorare e coso a Porto Torres, poi vabbè ho finito di lavorare, quindi ciccia. Vabbè, no, sempre, sempre. Ora fai 100 km al mese, invece di spendere 20 euro di benzina, ne spendi 4,50 di GPL. Sì, no, già ne faccio chilometri perché la mia compagna lavoro, eccetera, eccetera, vado a prenderla, e quindi i chilometri già li faccio lo stesso. Già la consumo, io lo consumo lo stesso, con pieno mi dura una settimana e mi rimangono due sacchette, là. Tu pensa che io faccio due pieni di gas alla settimana, praticamente intorno ai 60 euro là, perché ce ne stanno 29, molte volte 30, 28. E così è. E dove lo fai il gas? Io adesso lo sto facendo da Coso, sulla strada vicino al Coso, ma all'uscita di San Pietro, della, come si chiama, dell'ufficio delle entrate, però venendo dalla parte degli ospedali. Allora, a me Gavino mi ha detto di metterlo a Porto Torres il gas, oppure a Canica, che, lo stesso, che mette lo stesso gas, perché gli altri gas sono gas misti e ti sporcano l'impianto. Lo so, ma io ho il superfiltro, quindi a me poco me ne vuoi tutti. Mi ho messo il superfiltro in una e nell'altra macchina, quindi. Sarebbe questo superfiltro? Il superfiltro è quello che montava lui, brevettato da lui. Un filtro opzionale, quello tutto quanto in rame, grosso, tondo, cioè con la lana di vetro dentro. Non ce l'hai tu? Vabbè, tu c'hai l'impianto alla casa, quindi non ce l'hai sicuramente. Sì, ma per farmi capire, tu smonti quello che c'è e metti l'altro, oppure devi fare un impianto a parte? No, il superfiltro si può aggiungere agli impianti. Agli impianti, non lo so se si può aggiungere agli impianti di fabbrica, però penso di sì. Però agli impianti, cioè se uno si è fatto un impianto, che ne so, prima e non ce l'aveva il superfiltro, adesso se lo può mettere, però non lo so se, non ti posso dire se veramente negli impianti che nascono dalla fabbrica si può applicare, ma penso non ci siano problemi, perché è un giro di tubi con un filtro, niente di eccezionale, ci vuole solo un po' di spazio. No, vabbè, io tanto non ho nessun problema, perché appunto l'ho messo sempre o a Porto Torres oppure lo metto a Canica e hanno lo stesso gas, che è gas profano. Gli altri gas sono tutti quanti gas misti, e quello del rifornitore mi ha detto, non dico dove, Antonio, possiamo parlare in diretta, mi ha detto che le aggiungono anche ori bruciati in questo gas, e quindi dice vai dove stai andando, tranquilla che io lavoro qua, forse dico la verità, chi viene qua viene sempre a lamentarsi, cosa, perché ci mettono ori bruciati in mele. Sì, sì, lo so già, lo so, è quello che poi ti intasa, sono quelle microparticelle che poi vanno a intaccare il l'iniettore, però ripeto, con questo superfiltro, prima di arrivare, praticamente c'è lui, no, c'è lui, poi c'è il filtro tradizionale, poi c'è il polmone con il suo filtro, cioè prima di arrivare all'iniettore, cioè ti devono mettere acqua. Allora io una volta l'ho messo sulla Budimudi, stavo facendo un sorpasso e praticamente la macchina mi si è bloccata mentre sorpassavo. Immaginati tu che cosa ho dovuto fare io. Ho rallentato, ho fatto passare l'altra macchina e sono riuscito a mettermi dalla parte della curenza. Per poco, cazzo, mi succede un casino. E poi sono riuscito a partire a benzina. Quando sono andato da Gavino mi ha tolto il filtro e c'è la catrame dentro. Ma dove l'hai messo questo gas? L'ho detto, ma no, non lo sbagliare, devi metterlo o a Porto Torres oppure lì. Perché infatti dice c'erano tutti con me gli altri fornitori, perché io il consiglio che do è quello. E se volete che vada avanti, c'è mia moglie, va da tutte le parti, però c'ha la fortuna che c'ha un marito che gliela mette a posto la macchina quando non va bene. Però dice voi che dovete pagare, eccetera, anche se Gavino è una persona molto generosa, tante volte dice vai e portami gente, quando dico quanto ti devo dare, capito? Sì, sì, ci conosciamo da 30 anni con Gavino, abbiamo anche altri interessi in comune, sì lo so, non è quello il discorso, oppure potete andare anche sulla strada di Alghero, anche quello c'ha il GPL della Butangas. Franco, riprendi, scusa se abbiamo monopolizzato, Franco se ne è fuggito. Non gli piace il gas? Si è gasato. Oppure si è sgasato. A parte a chi tocca. Ti carcere sono. E vabbè, parliamo di gas, a tutti i dì. Vabbè, comunque io da quando avevo la Station Vego ho messo l'impianto a gas da lui e mi sono trovato benissimo, l'Astra è una macchina che consuma, consuma un bel benzina, a gas era una bomba. A me ne ha fatto già 6 o 7 di impianti Calvinuccio, 6 o 7, anche forse 8, 1, 2, 3, perché una l'ho fatto l'impianto, poi l'ho venduta subito la macchina, è stato un mio collega che stava aprendo le balle, cosa, vendimela, c'è l'impianto, mi serve l'impianto a gas, ho detto, papà, te ne una te lo fai fare, ma mi serve già con l'impianto, l'avevo appena acquistata io, una Clio, e l'avevo subito venduta, l'altra l'avevo venduta anche, nonostante avessi speso i soldi dell'impianto, ci ho anche guadagnato 1000 euro, e avevo preso questo appunto che avevo adesso, che comunque era nuovissima, però non aveva l'impianto, era normale, gliel'ho fatto fare da lui. Hai visto che macchina che c'ha, quella medica? Sì, ogni tanto andiamo a prenderci il caffè, mi fa un po' di paura, ma non so, un po' di senso quando mi siedo dentro. Perché? È un bel grado, un bel spazioso. Cazzo, sono di quelle macchine già che hanno un pianale che non finisce mai, sembra di stare in una barca, a me le barche non mi piacciono. No, ma anche a me, non gli ha fatto l'impianto a gas anche a quella, lo sai. Beh, quella è 5.000 di cilindrata, come fai a far andare la benzina? Chi è avanti? Nemmeno un euro, questo sì, da dove moduli? Scappa Carlo, dai. Va bene, non so se mi ascolti. Vabbè, dai, adesso ho provato a fare una cosa, vediamo un po' se mi ascolti meglio. Scappa, dai. Già ti ascolto anch'io, ma sottino, ma già ti ascolto. Dai, sono in compagnia di Antonio Riserva, vai, se lo ascolti. No, io sento in lontananza qualcuno che parla, la verità, però non riesco a capire cosa dice. Lo senti a tu? No. No, già, mi dispiace, io ogni tanto passa un po' di modulazione, sento qualcosa, qualcuno che parla, ma proprio il segnale non le vedo. La radio è così, ma a momenti. Cappa, non ti ascoltano, Antonio. Vabbè, sta modulando con un'antenna boomerang lui, non ha una 5 ottavi, forse anche per quello. Ho capito con quella. Vabbè, soddisfatto sì dell'antenna nuova, della J-Mall. Anche Ozzeri è preso e allora è zona buona. Se prende a parlare con Ozzeri non è facile. Caspita. Va bene allora, dai. Vabbè, io ho piazzato l'antenna nuova, ho messo la Superlev, che è una bella antenna, dai. E ha tutto in acciaio, mia, tu, la Superlev la conosci? Fatemi salutare a Mario, buonasera anche a, di nuovo ad Antonio. Immaginate Gianni che io con la Mantova non arrivo a Zieri, con la Smartec arrivo a Zieri. È un tipo diverso di antenna, Ma se portavi, 8,50 metri è alta, più alta della Mantova, c'è più trasmissione, più ricezione, più tutto. Poi anche Carlo è rimasto soddisfatto, caspita, arrivava una bomba a Zieri. Avanti, ancora riprendi, mi sto ascoltando, mi sto facendo la barra. Ehi, a ciao Cla di nuovo. Ma già tu ne hai cambiato due di antenne da poco. E io c'avevo la Greenmaster, me l'ha troncata il vento, me l'ha troncata in due, l'ho aggiustata e me l'ha rotta da un'altra parte. Alla fine mi sono rotto le scatole e me l'ho messa a lungo. Sì, ma prima di avere quella che hai adesso ne avevi un'altra. Eia. Perché ne ho visto una con tre radiali, ho detto ma... Sì, sì, sì, ne ho messo una che poi non andava bene, l'ho tolta, non mi piace, non mi soddisfava. Ma cos'era? Quella Midland, quella... Esatto, la Energy. Ah, non ti andava bene? No, no, no, guidava stazionarie, come pioveva, cosa, lascia perdere. L'ho cambiata subito, questa 1.1 in tutti i canali, massimo 1.2 e va benissimo. A pensare che me la volevo comprare con la Energy, me l'hai detto, non la compro più. No, aspetta tu, quella non andava bene perché chi l'ha smontata, quella Energy è di quelle telescopiche, no? Che si chiude telescopicamente. Chi l'ha smontata quando me la doveva dare, non si ricordava che era telescopica, quindi voleva togliere a forza le cose, non usciva, lo stilo non usciva e quindi ha forzato, tirato, l'ha tuzzinato. E cosa è successo? Che poi non veniva più su lo stilo, quindi cosa è successo? Che non potevi regolare le stazionarie. L'abbiamo fatto altri due buchi per vedere se andava bene, ma non andava bene, perché c'hai i buchi fissi dove tu metti le viti. Se tu sgarri quella taratura lì, non lo fa più. Io ho capito, no, ero deciso se prendere quella o quella della Grazioli, che mi piace molto come antenna, è abbastanza ben costruita, però è molto ingombrante. Ah, tu, fidati, ho quella che c'ha Claudio, la Superlem, che ha tutta la parte dove si inseriscono i radiali, ce l'ha tutta in acciaio, viti in acciaio, tutta fatta molto bene quell'antenna lì, quella che ho preso io. Non l'ho presa a caso, ho controllato prima di prenderla. Volevo prendere quella di Claudio, però il problema era questo, che era un'antenna troppo alta, ho paura che fischiasse, perché lì ci abita gente nell'attico, non voglio avere storie, capito? Quando è così alta magari fischia. Lo so, infatti non ne voglio, no, non ne volevo prendere, no, ho detto volevo prendermi la Grazioli, poi ci ho pensato perché comunque è molto ingombrante con i radiali, ho detto ma magari prendo quella lì, la Mid, la Energy, che fanno il modello, mi sembra mezz'onda, senza radiali anche. Sì, ma già che io c'avevo la 580, però ti ripeto, praticamente smontandola ha avuto quel problema lì, non saliva più il radiale, l'ultimo radiale, non saliva più del tutto, perché dovevi arrivare saltandolo, dovevi arrivare ai buchi per inserire poi le viti, capito? Però non combaciamo, quindi abbiamo fatto altri due buchi, abbiamo messo altri due viti per vedere se andava lo stesso, ma non andava, cazzo, ci aveva tre di stazionari, due e mezzo. Vabbè, l'avete accorciata, io perché li sono salite le stazionarie. Non saliva e non scendeva, capito? Era incastrata. Ho capito. No, a me non mi spiaceva come antenna, ne stavo guardando l'altro giorno, un po' ho detto, mi sa che mi prendo questa, adesso gli va una così, perché io, ripeto, volevo prendermi quella Grazioli, che mi piace tantissimo, magari la prendo ma la installo giù in campagna, però questa qui, boomerang, non so quanto tempo dura, perché al prossimo vento sicuramente dirà boccia. Chiedi a Claudio quella che ha preso lui, la 70, perché va bene. Ma quella è alta 7 metri. Vabbè, in campagna che ti dirigi. Ah, va bene, per campagna. 8,50 m, prego. Hai che voce sessuale che hai. Ma tu, non è che c'hai una scala, conosci chi ce l'ha da 6 metri per caso, no? Da prestarmi. No, ce ne abbiamo una noi, ma ce l'abbiamo a Olbia. Ma non sai dove l'abbia attaccato con l'antenna? È ancora più alto di te. Non lo so dove abita Carlo. Abita via di via, dove c'è il ripetitore della Telecom. Non è barato. C'è un problema, c'è. Ci arrivano per 40 a Muros, ma te scherzato. La testata sopra il Torino, già è alta 8,50 m l'antenna. In più c'è 4 metri di palo, fatti il conto. Il problema da te, sai qual è il problema, vero e proprio già. paura, là. Si caggia una tela del genere, ma ti danno a vino. Vabbè, e dove sta la Fonsarda lì, via Gorizia, là? No, via di via, non è sole alta. Angolo con via Savoia. Ah, ho capito, là. Acciugavi. Comunque lì è una bella zona. Gianni, il dottore mi fa provare. Beh, questa antenna quant'è che costa, Cla? Sparito. €180. 180 più 20 di spedizione. E all'incirca quanto costa quella Grazioli, quella Marasul, che cosa è? Ma questa qua che c'ha Claudio dice che dà 3 segnali in più dall'amato, ma c'ha sia l'amato ma che quella piazzata. E gli dà 3 segnali in più. Come banda di frequenza è sempre 26-30. Penso di sì. Già è troppo comunque comprare un'antenna a 220 che ti ricopre solo 26-30. Tanto, no, ma sono viuste sulla terrazza, ma mi senti? Guarda, dipende. Dovresti salire sul terrazzo e cercare di acchiapparlo con le chiappette. Me la presto io, Natalì, la scala da 3 metri. Ci arrivo io, cazza. Oh, Bianco, un attimo che devo andare a fare una corsa. Aspetta che c'era qualcuno che vuole prestare la scala a Natalino. Avanti, chi è? Natalino, se sei in ascolto, se ti serve una scala telescopica fino a 3-4 metri te la do io. Natalino, ci sei tu, Natalì? Sì, ha chiuso da me. Sì, vabbè, comunque. Già si sente un po'. Ah, ce l'ho io, 4 metri, 2 e 2, come la tua è già uguale. Di ferro. Eia. No, lì ci sono troppo pesanti, io me la voglio comprare. Mi voglio comprare una di quelle in alluminio, di quelle leggere. €250. Natalì, ma hai sentito che te la presta Carlo la scala? Ma come te, in ferro? Ma qua, e poi come me la porto qua? No, Natalì, è quella che stai cercando tu, è da 3 metri con la telescopica. Da 6 metri, ecco. Da 3 mi sembra, no, Carlo? Sino a 4 arriva, però. Ah, ok, sì, perché c'è quella trompetta, sino a 4 metri, telescopica, ok? In alluminio telescopica. E non me ne faccio niente. Alluminio in ferro, già è robusta. Perché non te ne fai niente, fammi capire. A chi l'infame di questura è a 6 metri. E allora Natale non so cosa di Dio. Noi il convento quello passa, cosa vuoi che dica? Non so che dirti. Ed io la viumi, 9 metri mi barghira che c'ha cara. E l'hai barrata anche. Innorabona. Ma vabbè. Questo bisogna farlo. Bisogna fargli qualcosa a questo, per forza. Basta, avanna giù le balle bie. Natalì, cosa vuoi che ti dica? Non lo so giù. Io la mia te la posso prestare, Natalì, ma non so quanti metri è, non lo so. Quanto sarà, Claudio, con la mia? 5-6 metri sarà. Ma quella che portiamo su per salire sopra il Torino? Già, sarà 4 metri quella. Ne è servita 6 metri. No, ma la mia alta di più, quando noi saliamo lì, alta di più, oltre, va oltre. Ma 6 metri deve arrivare già, aspetta, deve essere 6 metri in sicurezza, e allora il lavoro si può fare. Ma la mia è anche un po' vecchiotta, per quello non si vuole nulla, perché non si sa mai, quando va in altezze così alte... È un casino, se volete mi dica. È un casino, è buono. È un casino, lei. Avanti, Carlo, dove sei arrivato? Sono dentro Sassari, via Milano adesso. No, io prima avevo capito che era da 3 metri. Invece... Ah, ti pari, che devi pindire tutti i chi di Napa, che chi infame di questura, gatto di culo, una fucilata, ero posso pure. Che è stato minacciato? Natalino, ho detto che era una fucilata. A me? No, con l'infame che c'era attaccata a casa sua. E cos'è questo infame di questura? Così cos'è? Uno che canta in questura, eh. Ecco, care, ecco, ma cosa, non rivolgere mai niente. A chi ha rovinato di cantare, lo devi ne cudi per cagliarci il mondo. Ah, ho capito, è uno dei ricchi e poveri. È più povero che ricco, e comunque già appartiene a quella categoria, capito? Cazzo, bobo. E quindi cosa dovrebbe fare? Sollevare l'antenna, tanto. Tra un po' così la buttiamo serrato, c'è l'antenna. Io ho detto che con l'antenna che c'è, mettere la che... tuo che è sopra, voglio far montare, puoi capire? Ah, ecco, quello che abita su non gliela fa piazzare. Non si conferma. Ho capito, siccome adesso ormai la concessione non è più di Stato, quindi non esiste neanche più l'obbligo di farti mettere le antenne. Ah, qua abbiamo capito che ce ne ho dato una bella e una brutta, perché automaticamente hai caduto il diritto all'antenna. Eh sì, quello sì. Si sapeva, tutti i diritti sono caduti automaticamente. Ma qualcuno ha detto, meglio così, non paghiamo più, era meglio pagare 2-0, 1-0, 20 euro all'anno, e avere tutti i diritti che ci spettavano. Automaticamente abbiamo perso tutti i diritti. Perché oramai è una frequenza che non se la caga più nessuno, però i rompicoglioni sanno dove attaccarsi. Ma che non ci sono rompicoglioni. Quelli di Stefano, io non lo ricordo, la prima volta che ho messo l'antenna, come l'hanno vista, neanche il PL, neanche il cavo c'era attaccato col PL, che già qualcuno stava vedendo male. E chi non è un capello male, se ci sono l'andriga, posso mettere tradicio a 30 metri e montare direttiva, ma non la metto perché l'estetica mi rovina tutto, se no avete visto, già l'hai visto anche una cosa, sono pure, quindi sei quello che è uno dei primi che è venuto qua quando abbiamo fatto quell'impianto, perciò ma è così, in condominio è così, è un po' è così, non cambierà mai e poi mai, assolutamente. Oppure basta fare come faccio io, piatto e 4 quarti eccetera. Lo so Carre, però tu sei una persona diversa, tu sei una persona diversa da Natalino, capite? Noi conosciamo bene Natalino, a Natalino quando perde la pazienza poi iniziano i fuochi d'artificio e lì è un casino, perché quello è un delinquente, Natalino non è un delinquente, ma è uno che perde molto facilmente la pazienza ed è un grande pericolo, ma grande mi. Diciamo che Natalino non è una persona diplomatica. Una persona è cazzo, quando tu le pugni il culo è chiaro che si gira e tutti siamo così. Però, capito? No, lì deve stare anche tranquillo e sereno perché è una rottura di balle avere a che fare con quella persona lì, capito? Perché non ragiona, se avesse ragionato almeno forse era diverso. Lo so, ma sai, finché sei solo, vivi da solo e non hai famiglia, sai, uno ti può dire, domani mandano l'ubiglio, alla gua, ricudo una giussa e lo vago si ridere in terra, ma quando hai famiglia non te lo puoi permettere perché poi ti si ripercuote sulla tua famiglia. Più di quello che ho combattuto io, mi trovo, lo sa, lettere di condominio, contro lettere che li facevo io, le ho mandato tutto, quando ho scaricato tutti i diritti d'antenna che c'erano, da internet glielo ho allegato, insomma, non me ne volevo far mettere. Io diciamo che l'antenna l'ho messa un po' con l'ingagnia. Ho chiesto la chiave a quello dell'attico perché quelli lì ce lo devono avere per forza, la chiave, e gli ho detto che c'era l'antenna che non andava bene nel televisore, dovevo controllarla. Così mi ho fatto il doppione e poi ho fatto quello che dovevo fare. Oggi come oggi però non l'avreste potuto fare già, perché purtroppo ormai le leggi non esistono più. Lo so, però allora era così. E io ce l'ho tuttora il foglio che ho scaricato da internet, perché loro dicevano bisogna vedere se noi te la facciamo mettere l'antenna. E questo è un mio diritto, gli ho detto, è un mio diritto. Sono andato anche alla Scomposti io e gliel'ho detto. Mi ha detto se ci sono problemi chiami a noi. C'è anche a dire una cosa, che comunque con le frequenze che si stanno utilizzando adesso per la TV e con le frequenze che utilizziamo noi con i CB non è possibile che uno crei disturbi, però sai, la niente manca per sempre. Diciamo che Natalino disturbava lo stesso, anche vabbè, forse col nuovo, no, col nuovo sistema, no? Col sistema che c'era prima, Natalino disturbava. Lo so, ma adesso con queste nuove frequenze cosa disturbi che siamo lontani 10.000 miglia dal sole? Vabbè, meglio così, prima TVA, questo, quell'altro, ti suonava il campanello, mamma mia. Ma guarda, io ho provato in campagna, 750 watt, l'antenna è attaccata all'antenna, alla mantova, e l'antenna TV è sotto la mantova, 750 watt di portante e non rimane neanche una bigia. È sempre questo di fortuna, ma a volte anche il cavo che ha dispersione. Sì, devi vedere come si fa la 58 a me, molto molto. Tu tu vieni, se ti premo la portante lo guardi come si fa, molle molle, poi la mollo e ritorna rigido, poi la premo e si rifà di nuovo molle. Così almeno non si rovina, no? Ogni tanto lo rammollisci, non si indurisce. Fino al giorno che si scioglie la calza e si scioglie la, come si dice, il rivestimento del polo caldo, si attacca l'uno con l'altro. A tu, tante volte anche il PN mi si rovina, non è solo il cavo. No, il PN non si può rovinare, che ho quelle macchinette che avevo comprato negli anni 80 quando è installato la prima antenna. Il PN è in macchinette. Il cavo però è fuori, oh, ce l'ho 1213 30 metri, ma fa una mandronia di non ciamballo, sempre così. Io anche ho avuto problemi con il PN, ho messo il cavo H100 al posto dell'RG58 e ho fatto diversi spezzoni, non ce n'è uno che ha vinta al baracchino, tutti diversi come filettatura. E tu non li comprai da Fusaro? Io me li compro. Guardateli da internet, insieme me li sono presi da internet, mi sono arrivati dopo 20 giorni, però sono belli, macchilite, avvitano tutti. Non so che quelli là non avvitano, me lo stai dicendo. Cazzo, sono salito io a piattare l'antenna su da me e non mi avvitava nell'adattatore dell'antenna VHF. Cazzo, ho fatto 5-6 spezzoni, adesso li devo tutti rismontare, rifare, perché non ce n'è uno che avvita. Infatti glielo avevo detto a quella persona lì, ho detto, no, riprenditeli questi e buttaceli nel gabinetto, che non servono a niente. Non sono più corti, non lo so, non prenderà filettatura, se tu continui a invitarti sfida anche la filettatura dell'apparato. Lo so, no, dell'apparato sì, dell'antenna no, già dell'antenna riesce a vittarlo, io gli ho dato due giri piano piano, gli ho messo un po' di CRC col pappagallo, piano piano ho fatto la svita e svita e gli ho fatto la filettatura. Nell'antenna lo puoi fare, nell'apparato ti gira tutto dentro poi. Eppure erano le macchinite, quelle che ho preso, erano le macchinite. Lo so, ma sono quelli di concorrenza, è come i finali che vendono dalla Cina, 10 finali, 21,69 a 1,50. Non so se qualche burato ha avuto questi problemi, però a me me l'ha fatto. Te importa, ma cosa te riporto, li ha montati, ma gli ho fatto un travaglio, ma non... Ehi, no, io glielo ho riportati 5. Uno ormai l'avevo smennato e l'ho tenuto, gli altri 5 glielo ho ridati. Io a tu, essendo in macchinista, pensavo che fossero solo quelli bianchi che non abitavano. Invece questi macchinisti, io ho detto, sicuramente vanno bene perché sono come gli altri, mentre invece la filettatura è diversa. Beh, e dopo mi viene a dire, ordinate tutto da fuori, non ci venite mai, voi tecnici siete passati a fare tutti gli elettricisti, no, gli ho detto, veramente io sono nato elettricista, poi sono passato al settore tecnico e adesso sono tornato, ho detto, non è che, perché, no, non si può riparare niente, ho detto, ce l'hai questo componente? No, quello no, quell'altro no, ma che cazzo te ne fai di un tecnico? Non si trova più nulla qua, anche la minima cosa non si trova, tutto da internet bisogna ordinare, addirittura quei potenziometri dei microfoni ce l'avevo nel Tarra più 3 Super Sidekick, quello lì, ce l'aveva praticamente il potenziometro un po' difettoso. Sempre di potenziometri che avrebbe defusato, sono quelli in plastica che non servono a nulla, che non servono a nulla, a parte che sono molto più lunghi e devi tagliarli, vabbè, quello lì, e ho dovuto modificarne un altro e mettermi quello. Vabbè, tagliarli devi tagliare tutti, perché loro ti fanno l'asta lunga, l'alberino lungo, in modo che tu puoi utilizzarlo per qualsiasi cosa. Fin qui lì ci stiamo, perché vogliono tagliarti, però sono in plastica, non si viene a nulla, cioè hanno la parte, diciamo, dove scorre la resistenza, che non è di macchinite niente, non si sanno manche di cosa è, se è una plastica con un pezzo di filo di rame sopra, non servono più a nulla quelle cose. Facciamo girare, avanti qua. È così. Dimmi piuttosto, se la modulazione è la mia, lascia perdere quello che senti sotto, che c'è il fumo acceso. È la mia la modulazione? Certamente che sì. Ok, non pensavo era troppo alta, perché poco fa ho fatto gli spostamenti e mi è sembrato di passare col braccio davanti alla... Mickey Green. E così è. Marco, Gianni, per carità di Dio, guarda. Quel palazzo che avevi messo tutta la fucilazione. E come mi avvicini bene, c'è il vedimo che sta facendo un impianto con le controbale, perché ti giuro, la prima volta abbiamo montato la mantova da Gianni, a prescindere abbiamo avuto un pochino di problemi sul muro, lui c'è l'infolatina, abbiamo messo il pensiero chimico, insomma delle staffe un po' particolari, ma la cavolo tiranti, proprio per tenere bene l'antenna della mantova non ne farà da mai, mai poi mai, se non in maniera da rigurraci. Ma un impianto a regolare con tutte le fascette, tutti i cavallotti, dove appoggia il tassello, il pezzo della gomma per non toccare il cemento, ecco, un lavoro a regola da. E il imbecille cosa sta facendo? Questo è il posto mio. Non regolaci i vedendi. Cosa stai dicendo? Ma qual è il posto suo? Questo è il posto di tutti. Ma cosa si intendi? Ma lì il tassello non va bene perché il muro è mio, vabbè. È perché Gianni me l'ha fatto pure, se no domani l'avrei tolto il tassello da lì. No, non c'entra niente, se tu lo metti nella colonna del palazzo non ce n'è il muro di nessuno, il muro è del condominio, a meno che non glielo metti nel muro di camera da letto. Una cosa, nel cordolo l'abbiamo messo, nel cordolo che praticamente scende nel muro del suo terrazzo, il cordolo del terrazzo è di tutti, il terrazzo è di tutti, Gianni può salire quando cazzo vuole, ma sono di una vergogna di surugo, uno che deve salire a cura, silenzio, facciamo piano, tutto cazzo. Ci abitavo io. E a me viene voluto me. Io sono molto diplomatico, lasci. E se no io sono diplomatico e maleducato, buu. Vabbè, molte volte mia moglie mi dice vai, ritirati che è meglio, che sennò qua succede la guerra oggi. Un gente di genere la guerra che fa succedere per forza, ma stiamo scherzando. Ma ti dico un capolavoro, l'impianto che abbiamo fatto la prima volta a Gianni. Un capolavoro. E dico, bucate state bucando, vabbè stiamo bucando tutti i tasselli siliconati uno per uno, altro. Ti sto dicendo un capolavoro. E dico a Bozzi, con il tassello da lì, che il muro è il mio, dico già, non andare a cagare, no, qua non fa, ci devo convivere. Se avessi abitato io lì, già mi sarei uscito liscio. Ma dopo di 2 mesi se n'è andato quello, no già. Eia, lui dice che praticamente là doveva fare, in effetti poi ha fatto tutti i lastroni in legno e ha fatto la tettoia, ha chiuso tutto e ci ha fatto praticamente tutto il terrazzo, l'ha coperto completamente con una veranda grandissima che non so manco se lo poteva fare, comunque lui ha utilizzato quel muro per attaccarci i travuni, capito? Sì, beh, normale, come si fa? Anch'io quest'estate devo farla hai visto dove ci sono i due lati scoperti, lì lo stesso devo fare due verande, però lo faccio d'estate. Ma è casa mia, non venisce uno, me lo porto. Lui sicuramente avrà chiesto l'autorizzazione al condominio e gliel'hanno accettato. Adesso funziona così, in campagna è diverso, ma in condominio qualsiasi cosa fai deve essere al corrente sia l'amministratore e sia l'ufficio tecnico, perché tu stai facendo una pradimetria, stai facendo cubatura, capito? Vai a tutti. Esatto, sì, tu ti potevi informare benissimo al comune, perché se lui ha chiuso sta facendo cubatura e quindi rientra comunque in quello che è una sanzione edilizia. Beh certo, ma penso che essendo un avvocato abbia fatto tutte le cose per bene. No, comunque non è tanto la persona che ci abita adesso che è una persona squisita, è quello che c'era prima che era uno stronzo. Perché per colpa sua un tirante l'ho dovuto attaccare alla ralla del televisore, alla staffa del televisore di quelle grosse, capito? L'ho attaccata lì e c'ha meno tiraggio, comunque già va bene lo stesso. Vabbè, comprati un po' di metri di corda in più, te la faccio agganciare alla mia. Però anch'io ce l'ho grossa, Vi siete sopravvodulate. La cosa che ho preso, ce l'ho grossa anch'io. Ma cosa? Ma si agganto di la ciaffi, la ralla. Allora è Natalino, a tempo che pari, a 100 metri di biglia. Di biglia, l'uguri, paro. No, Natalino, mi fai la bravo. Che si mette a funzionare la pompa, E domani siamo rigettata. Ah, ma ribongo l'abortante, ribonga il tantunio. Vai caro, dai, non fare così. Io ti temo, Visto là. Vai da bravo. Io ti dico caro, tu mi tratti così. Tu. Cazzo me ne ci faccio la ralla più banale, la doia, non si biglia, non si vazzi, più longa. No, io ho detto che ce l'ho grossa, la ralla. Qui non si sa se sono bambini, però non lo dico. Ah, no, l'ha detto, non c'è malizioso, non tocca, tu c'è malizioso. Davanti, caro Verdone, dove sei? Sarà già arrivato. No, non stavo andando a Ghero, stava rientrando, c'era Sassari. Sì, ho detto sta tornando da Ghero. Ah sì, perché oggi era, sì, secondo turno, è uscito alle 18, quindi alle 19, forse alle 7 è uscito. Vabbè, cazzo, vai un cartavanetto di butto, cazzo, 25 gradi sono qua dentro, quasi come mi viene. Cazzo, lo sai che stavo per dire la cosa io, poi adesso salgo su e spengo tutto perché viene pieno di fuoco la faccia. Madonna, come si andava a fare questa cosa? Cioè, pure oggi l'ho acceso presto perché siamo un po' messi male, quindi avrò un po' più di caldo. Ma, minchia, terza da lì piccolo, dormo, quasi 26 gradi sono dentro. Aspetta che abbasso tutto. Ma non fa bene, come restare al fresco in quelle situazioni? Cazzo che galera giù. C'entra niente, al fresco, nel senso, non superare le temperature e respirare di aria fresca, non al fresco in galera. Allora, prego a come? Se la paga a cagliudo, ti andi a fuori e ti muovi, tipo si è andata lo cancello, stanotte andrò in chiave. No, c'è la verandina, bella lo salottino, tu. Ci abbiamo avuto la berretta. Lì devi stare, perché io me lo ricordo quando mia moglie non stava bene, che a noi ci avevano detto di stare all'aperto. Io me ne andavo in campagna e stavo lì. Non troppo caldo, vabbè, l'ho accesa alle 2, di solito facendo la caldaia facendo alle 5 e mezzo. Oggi l'ho accesa alle 2 perché l'aria c'era un affretto, però adesso c'è troppo caldo. C'è il forno acceso, tutto, mamma mia, è così, no, anche io oggi l'ho accesa prima perché c'è un'amica di mia figlia a casa che è freddolosa. Oh, ma grande? Sì, 18 anni. No, troppo piccolo. Lo so, l'amica di mia figlia. Vabbè, però cazzo di 18 anni che è già freddo, insomma. Non lo so, ma tu devi vedere, secondo il momento mi tirate la buccia. La mia ragna, come ero io quando ero ragazzo, è pure più ragna. Gente mala. Tu mi hai fatto assoltare tu, cazzo. Buonasera a tutti. Ciao, grande Cicco. Come l'Antonio Niasignari, ciu. Gappa, gappa. Ora scendo giù a mangiare che sono appena arrivato. Ciao Antonio, buonasera Antonio Rizzè. Ciao, e anche arrivato già a mangiare sei andato. È già un grido, appena arrivato a casa. Cazzo di dente arriva a mangiare. Sono andato di travagliente, cazzo, faccio fame, faccio. Ah, quindi praticamente sono che arrivi a quell'ora, quindi ti fanno trovare già tutto pronto. Cappa, la mia signora mi fa mangiare. Beato te, io invece quando torno a casa vado anche a preparare. Ai ai ai. Lo devo preparare anche per la mia signora e per la mia signorina. Vabbè. Adesso scendo giù là e mi metto una magnata. Ecco, che cosa già te preparato, Sara? Ma poi basta asciutta. Mamma mia, Antonio Sappi, Antonio Risei, Antonio Bombo, la mante la basta asciutta. Ha detto un poco di basta asciutta, almeno mezzo chilo. No, non ti credino. No, 4,50? No. Poca roba, magna. E dieta. Mia cognata mi ha detto che a dieta. Mia chiesa. Sta mangiando poco e spesso, quindi 200 grammi ogni mezz'ora. Ah, tanto il peso è tegognato, a dieta è etano, Antonio. È giusto. Lasciatelo mangiare ad Antonio che deve lavorare, bisogna di mettersi in forza. Così Anto, a dieta è tua cognata, non tu. Sì, in teoria sì. Allora tu a lei non la fai mangiare, tu mangi, cosa? Ah, buona per Isabella. Oi Luca! Popoli! Gappa, ti saluta qua Luca, ok, e ci che scendo giù. Ciao Sara. Anche lui ti ha salutato. Ho tappato in quattro. Io ho detto svegliati, è primavera. Vedi come puoi scendere della Magna Ubizzoni. Vero che ha un gai. No, era Magna Ubizzoni. Ma che cazzo hai fatto? Non ancora esiste un amianto, cosa pensi di fare? Ancora vedo un po' tantissimo. Ehi, cosa ride? Come negli anni 80. Ma chi non deve fare anche a casa? Tutti i giri puntuali, tu è lui a far cassate le balle. No, va a non credere. Poi ho messo appunto il segnalone, cazzo qua è Santiago, vai e coca, di vai. Cazzo, vedrà più o meno il segnale del chiesto della iatta mia. Beh, cazzo, a te intanto quando vuoi nella portante, cazzo, mi c'è il lampione già in via. Ma se mi ricordo in campagna, no? Che mio padre diceva, ma vuoi solo la lampadina della veranda accesa? Cazzo, cazzo, ti senti molto, cazzo. Arriva più forte Luca da casa di Marina dietro, ma ecco, penso che arrivo più fuggivo dalla macchina senza nulla. Non mi fa vedere, che è già la quinta volta che io dico vai a giocare una trappata, bravo, vai. Oppure mettiti qualcosa di più consistente per disturbare, cosa vieni qua a rompere le palle, se non vai a geniare. Cosa ci volevo dire? Come ti sembra questa radio? Infatti, cioè, cosa fai queste cazzate? Vabbè. Gianni, ci sei Gianni? Sì che ci sono, va, sto rispondendo a un commento. Cosa ne dici questa radio, Antu? Nelson. Mille ti ha chiesto se ti piace quella radio. E che radio è, caro? Dimmelo. Dove piatti? A mia, va lo dica a te. Come piatti, Antu? Sai quanto mi piace quella voce corposa? Mi sembri Mazinga. Veramente mentre via Giampaolo Silvestro, Paolo Silvestro. Sono fatto un vaso. Ma io perché che vedo la foto già un po' la ci metterò me la bignica, per carità. Vabbè, cra, purtroppo. Ero molto legato già un po'. Io ogni volta che scendevo con anche la mamma, passavo a trovare a mamma e passavo a trovare a lui, sempre. Allucinante poverino, veramente. Mia nonna diceva, siamo di questo mondo. Andiamo lì in radio, andiamo lì. Quando si pone a fare un peschereccio, altrimenti. Certo che sì, altri tempi erano, allora si facevano discorsi, chiacchiere, e dopo sono entrati le rotture di scatole, però per un momento si sono calmati, adesso stanno riprendendo. No, ma siamo quattro gatti, e che c'è sempre la sera questo signorino che lo stiamo sempre cercando, stagliando una gatta ne dice che andiamo la manna del gordo, capito? Ogni sera viene qua nel canale 10, l'altro giorno ho seguito il vento e trascotto. Io non voglio avere le mosche sotto la mia voce, quindi vabbè, un momento, originario, se non avviati. Ma davvero? Ma adesso dico io. Comunque, chi fa queste cose sicuramente è un CB, perché il baracchino non se lo compareggia così, fa nulla al giorno d'oggi. Quindi sicuramente è uno che parlava. E più di uno c'era che parlava, non parla più, è diventato sordomuto. Ma allora rompere i coglioni, li ha sempre. Vabbè, anche io non entro mai, ma non è che mi muoga pure importante, no? Tanto si può anche fare uno scherzo, mi Antonio, devi fare ta. Beh, importante c'è. Oh, mi dice oddio, mi. Allora, che caro l'abbiamo sempre fatto, ti bacio, ti grimba, ti bacio. Ma questo proprio punto che Santa Sera viene a non preparare qua nel canale 10. Vuol dire che vi odia, Cla. Sì, chi odia ama. Anche perché l'odio è un sentimento molto più profondo dell'amore. Allora, non mattagliene le varie. Ma beh, da varà, da varo. Natalino, sento. Nazari, fammi sentire di nuovo con la voce piena. Ma cosa piena, cosa piena. Ah, cos'è, un turner quello? Ma cosa turner? Già ce l'ho anche quello. Stai più usando perché non ti tira. Un turner. Ah, Nazari, non lo stai più usando perché non ti tira il turner. Ah, no, non va bene qua. Ah, non va bene qua. E cosa va bene qua? Questo che sto usando. Nell'altro poteva andare bene il turner, c'avevo l'MBT4 collegato in quello che ho parlato poco fa. Sai, quando parli con la voce così ti immagino, sai, con quelle parrucche con le treccine. Oh, saluto, fammi vedere come le posso mangiare, io vado a mangiare, ciao ragazzi. Ma vai a mangiare, Cla, mangi domani, è la stessa cosa. Ah, gli ho mangiato proprio a pranzo, perché se mangiavo mi sembra della bitola. Me lo può prendere anche la pastiglia per il Covid. Ma vabbè, mangi un brodo, la mattina di succio un altro di brodo in tazza, e la matessi cosa. Ma tu hai capito come ti mangi un brodo, io pensavo che mai l'hai visto, io mangio un panino dentro, tutto pieno di gas, lo io, e faccio la bappetta. Ah, proprio come ti rubizzone. Allora. Oi. Brodino del quav. E vabbè, d'accla, meglio che su che nuda. Buon appetito, allora. Allora, mia, fiamma di fava. Già mangiato, cazzo, la curi butto la mangia a bassa asciutta. Cosa vi può mangiare a bassa asciutta? No, là, gliela fanno trovare già masticata, sanno chi arriva che c'ha fame. E se mangiare la galluccia? Tanto che cose due avanti, ma i coglioni. No, gliela fanno trovare già masticata perché sanno chi viene con appetito. Una cosa, due piatti mi nascio mangiarlo. Puro! Avvisiamo un po', avvisami che quando ho fatto anche fetta ti compreggio una cianchetta. Infatti, che ti conviene? Ma quello sicuro ti hai mangiato? No, secondo no, non ve la nuda. Solo la pasta. Cappa, so. Mi, so con burburito, tutto vasto. Bagnato, pulito, e tutto. L'unica cosa che vuoi farmi sulla doccia, boh. No, sottino devi fare. No, che non andava bene, no, che sennò so con malaucato. Anzu, allora, quando io lavoravo, no? Allora, ma tu non mi credi, non arrivi a casa. Mica mi faccio la doccia, metti con cavo, così io dove devo travagliare domani. Che schifo! Prego. Allora Zimmi, crocro. Un fianco di guru. E quasi così, a voi. E se ormai faccio una disciola di emo. Vai, non ti dici un... Alza, uno la senza la mamma in mani, prima non dici non mi faccio la doccia. A me fa schifo. La doccia? Ognuno c'ha la sensua. No, cosa stai dicendo? A me fa schifo entrare a letto sporco. Ah, no, a me mi fa proprio... No, io se no... Davvero, sono fatto così, sono gruppo allucinante. Ma tu, fai il caso che ti manca l'acqua, non ti va la vacca, mi ripieghi. Fare in campagna per un mozzo, per l'autoclave, per lo serbatoio. Ma no, sogno bombolino, andiamo a andare a lavare, a rosetto. Ma non mi danno di lei, ma mi davo, cosa devo fare? Ma io avevo inventato tutto un sistema, non l'ho trovato più. Cavolo, quando mancava l'acqua, praticamente era una pompa sommersa di gozzo, di roulotte, di quelle... Aveva attaccato lo tubo, aveva attaccato un coso per la doccia, faceva una bacina, un alimentatore di rubaracchino, faceva una bacinella così di Eva, così a moglie Ughilta per la cosa, tutto un sistema avevo inventato, non l'ho provato più, chissà che fine ha fatto. E chi c'ha paro pulsante è farà pareva, le vagga c'ha buro mi, faccio con la doccia. Quella era una pompa di sentina di barca. Della roulotte. Ma era della, come la pompa di sentina di barca, con le polpe autospinanti a 12 volts. Sì. Già lo so, ce l'ho io in campagna, lo uso per svuotare la piscina. Quanto guarda il telefono su WhatsApp? No, il telefono ce l'ho su, sta lì. Nell'altro mondo, non ho voglia di salirci su. Quindi batte. Dopo lo guardo quando salgo, caro. Sì. Adesso sono qui, se salgo su poi mi mettono a lavorare. Questa voi stavi dicendo a me, Natali. No, Antonio. Riserva stavo dicendo. Non ho capito che stava dicendo a me. Quando parla con me ha un tono più posato, più tranquillo, più rilassato. Perché Luigi. Non ci no. Neanche il padre, non si può fare. che non gioco e me la prendo il gioco la calza, ha detto ma è l'ora amara l'ha giudizio e si è incazzato. Oh Anto, dimmi. No, te ne riserva. Dimmi. Allora, io non so se tu ce l'hai o qualcuno di voi ce l'ha, ma è Antonio Reventi mi ha fatto vedere il video, c'è cioè il video che era quello, il cassetto grande, adesso l'ha trasformato in CD, l'ha fatto il figlio Alessandro, della partita di calcio che c'era stata tra ICB e quelli praticamente sposati contro quelli non sposati, ho giocato anche io, e c'era Giovanni Modigliani, cazzo uguale, lacrime, stavano scendendo le lacrime, ma bellissimo quel video, Giovanni Modigliani che gli avevano messo tutto la schiuma, la barba in faccia, e poi gli avevano fatto la targhetta, lui a forma di uccello. No, me l'aveva detto a me Giovanni Modigliani, non l'ho mai visto. Antonio del Venti, ha detto dove, ma infatti Antonio non ha visto Alessandro, perché va spesso Alessandro al bar dove c'è l'aria, no? E glielo ho detto, dille a Babbo se me lo doppia, ma no, già te lo faccio io, ma bellissimo, Giovanni no, che praticamente incorniciava, faceva, ha fatto una cornice, ma bennami, a fine partita hanno premiato tutti, hanno premiato anche lui, era fatto la targhetta a forma di uccello, ma oi, le lacrime. Giovanni, che abitava in via Manzone? Allora, sì, adesso abita a Tello, poverino, quando è morto il figlio, è riconoscibile, cazzo. Cosa ci puoi fare, purtroppo? Non lo so, la cipria è cipria, di solito si usa per incipriarsi, invece, è così. Disgrazia, disgrazia, io dico sempre disgrazia, ma capitano di tutti i tipi, accidenti di macchine, guido, raggio, disgrazia. Disgrazia è brutta quella... Io la condivido, ma non è che la provo molto, però la disgrazia più grande, non mi sarei mai aspettato, poverino, la è arrivata a Marco 131, gli ha morto il figlio in quell'incidente alla Gentiera. Hai visto anche quello. Perché quelle sono cose inaspettate, cose che non ti aspetti mai, che pensi sempre che possano sempre accadere agli altri e mai a te. Lo so, purtroppo lo so. Marco, ci siamo visti quest'estate all'Eurospin, mi ha raccontato tutto, poverino, sembra un'altra persona, veramente, un'altra persona, mamma mia. Il dolore grande. Non si va avanti, non si sopravvive alla morte di un figlio, perché comunque non... è la cosa più brutta che ti possa capitare. No, ma lì c'è una cosa ancora più triste della morte, capito? Ci sono delle cose che a lui non le sono chiare, e quindi non riesce a farci scendere giù questa cosa. Vabbè. Pazienza, comunque tornando a Forcone, se riesco ad avere quel CD ve lo doppio a tutti, ma è una cosa spettacolare da vedere, c'è tutta la partita bellissima, molto bella, se lo metti in un CD a schermo gigante, guarda, è pazzesco, l'ho vista così in un tablet praticamente, ma è una cosa pazzesca da vedere, ti libera dei lacrime e dei canturrini. Io guarda, l'ho visto su internet, ma non c'è il filmato, c'è la fotografia di Falcone con la schiuma in faccia, ma non solo in faccia, è tutto il corpo. Tutto la schiumata, Giovanni, tutto, ma la premiazione ti deve vedere, la premiazione, c'era il sindaco, c'era un bel DJ, ti dico, una cosa aspetta, una cosa seria secondo Edo, no? Seria secondo lui, nome e cognome, non c'ha tocco col megafono, Giovanni Modigliani, guarda le risate, una cosa seria, Edo, mi hanno portato la targhetta, come ti fa di Edo, apre la targhetta, era tutta bella, incappucciata,